Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo, lo ha fatto anche poco fa Oscar Giannino, di quanto annunciato dal Presidente del Consiglio era nell'aria e quindi che il limite all'utilizzo dei contanti sale da 1.000 euro a 3.000 euro in legge finanziaria. Dico subito, questo anche per dimostrare ce ne fosse bisogno il pluralismo che c'è in questa radio, che io sono esattamente la penso in maniera esattamente contraria a Oscar Giannino su questo e penso che sia un grossissimo errore, al di là di tutte le polemiche sul poi come farà la vecchietta se dopo sopra i 1.000 euro andare al banco, ma sono tutte, diciamo, tutta nei paesi più, so che su questo molti non la pensano allo stesso modo, ma nel mondo anglosassone, là dove l'evasione fiscale è bassissima, addirittura in America se paghi in contanti, diciamo, ti guardano un proprio strano come se fossi un evasore, ma nel resto dei paesi europei si usa tantissimo la carta di credito o altre forme di pagamento. Voi direte, certo, mi devono abbassare le commissioni per i commercianti, giusto, e si faccia una battaglia su questo. Vedere festeggiare anche la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, dire bene, i contanti da 1.000 a 3.000 euro, io mi chiedo perché, cioè da un punto di vista formale non dovrebbe cambiare niente, chi o paghi in contanti o paghi in altro modo o col banco, ma non dovrebbe cambiare niente. Il sospetto è che, diciamo, questa cosa nasconda questa gioia per il pagamento da 1.000 a 3.000 euro, nasconde, diciamo, una voglia di dire non date un limite a questo. Che poi ci siano a livello europeo diverse formule, il Premier Renzi oggi ha detto che ci mettiamo in linea come il resto d'Europa, non è vero, l'Europa da questo punto di vista fa, ogni paese fa un po' quello che vuole, per cui tra l'altro ci sono anche i consumatori che denunciano del tutto immotivate fuori luogo l'ipotesi di portare da 1.000 a 3.000 euro il limite per l'operazione in contanti. Di questo comunque parleremo. Bene, secondo la Confesercenti invece anche il presidente il presidente di Confcommercio oggi Sangalli ha detto a margine del forum sui trasporti di Cernobbio che con questa proposta si favorisce certamente l'attività economica delle imprese, soprattutto quelle transfrontaliere fino ad oggi penalizzate. Nel caso delle imprese transfrontaliere si poteva pensare a una norma DOC. Comunque detto questo, alcuni dicono beh, l'altra norma favoriva le banche. Ripeto, un conto è dire che le commissioni praticate dalle banche, le commissioni sull'utilizzo del carticato siano troppo alte, e su questo si può fare una battaglia. Altra cosa è dire che da 1.000, aumentando i contanti da 1.000 a 3.000 euro si fa ripartire l'economia. Dai, si fa ripartire l'economia perché qualcuno vuole utilizzare un po' il nero su. Poi questa cosa darà fastidio, ho capito, è bello anche il mondo perché vario in quanto a opinioni. Detto questo, gli altri temi di cui parleremo chiaramente riguarderanno da un lato anche quanto uscito, le altre informazioni uscite oggi dal Presidente del Consiglio sulla legge di stabilità, parleremo di Alitalia e poi di questo di questa fusione che tra virgolette finalmente si farà. La stavamo seguendo da intere giornate, creerà il più grande colosso al mondo nel settore della birra. Dopo il terzo rilancio, infatti, il gruppo belga ha ottenuto via libera per acquisire Sub-Miller, quindi InBev acquisirà Sub-Miller per 68 miliardi di sterline, 100 miliardi di euro, 44 sterline per azione, il 50% in più rispetto all'offerta iniziale presentata a settembre. Nascerà quindi un colosso della birra da 250 miliardi di euro di capitalizzazione, praticamente una birra su tre prodotta, bevuta nel mondo verrà da questo consorzio. Ancora, e ne parleremo, dicevo, per quello che riguarda la cronaca di oggi ci occuperemo, purtroppo delle volte ci dobbiamo occupare di cronaca giudiziaria perché ha a che fare con elementi di carattere economico, e mi riferisco in questo caso all'arresto del vicepresidente della Regione Lombardia Mantovani, concussione, corruzione. Queste le accuse principali, ma anche corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti come esito di un'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Milano. Ancora, da quello che sta immaginando dalle carte, ci sarebbero anche alcuni appalti per i servizi di trasporto dei malati dializzati, quindi oggetti di dialisi, tra le gare truccate dal vicepresidente della Regione Lombardia ed ex assessore alla salute del Pirellone Mario Mantovani, appunto finito in carcere questa mattina. La cosa buffa, no, perché non c'è nulla da ridere in questa vicenda, ma la cosa paradossale, se vogliamo, è che questa mattina il vicepresidente della Regione Lombardia Mantovani era atteso all'apertura della giornata della trasparenza, giornata della legalità, e invece, diciamo, invece che andare lì è stato arrestato e andato in carcere. I PM indagano anche l'assessore Massimo Garavaglia della Lega, è una delle persone perquisite oggi dalla Guardia di Finanza, accusato anche lui di turbativa d'asta. Poco fa il leader della Lega Salvini ha detto di essere assolutamente sereno sull'onestà di Garavaglia, e Maroni, invece presidente della Regione Lombardia, ha detto di essere stupito dell'arresto. La Regione è estranea, mi auguro che Mantovani sia in grado di mostrare la sua correttezza. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Scrivono perché non si fa invece una politica per poter detrarre o scontare i lavori e le fatture per quello che riguarda il privato. Ne abbiamo parlato moltissime volte, mi riferisco all'annuncio di Renzi che da 1000 euro si passerà a 3000 euro. Altri, che penso siano lavoratori, anzi sono lavoratori di banca, mi dicono: guardi che ci sono tantissime persone anziane che sanno benissimo usare banca, ma carte di credito. Poi mi scrivono un ascoltatore: ma allora che cosa stampiamo a fare le valute da 500 euro? Infatti, secondo me, possiamo dirla tutta, la valuta da 500 euro, alzi la mano chi l'ha mai usata contento. Certo che può servire per alcune transazioni. Si è fatto notare che era un taglio valutario perfetto i 500 euro, proprio per chi deve, diciamo, portare i capitali illeciti. Allora, sarà una battuta, ma non è il problema del taglio del 500 euro in questione. In questione è se ci debba essere un limite o no, e quanto debba essere questo limite sull'utilizzo di contanti in un paese che ha il, questo però dobbiamo anche dircelo, che ha il record di evasione su base europea. Comunque adesso ci arriviamo. Andiamo avanti con le altre notizie. Dicevo, Milano invariata come borsa, Parigi invece perde l'1%, Francoforte meno 0,80%, Londra meno 0,20%, il Dow Jones più 0,11%, euro su dollaro quota 1,1372, in leggero rafforzamento vicino a quota 1,14. Tra i titoli, oggi in realtà Milano è meglio delle altre borse europee, ma non dentro l'indice. Moncler perde il 5,20%, CNH al 2,5%, Telecom il 2,20%, Ferragamo il 2%, Monte dei Paschi meno 1,70% come Unipol e Tods, l'1,30% lo perde ST Microelectronics, l'1,20% Generali, l'1,1% Unipol Sai. Invece bene Hux Net-a-Porter più 2%, Atlantia più 1,80%, Mediolanum più 1,60%, Buzzi Unicem più 1,40%, Luxottica più 1,30%, Mediobanca più 1%, Campari più 1% come Tenaris. Ancora sull'economia internazionale, per quello che riguarda la Cina è arrivato un altro dato non buono: le importazioni cinesi sono calate del 20% rispetto a un anno prima nel mese di settembre, e questo a fronte di esportazioni calate del 3,7%. Però il problema o il segnale di un rallentamento dell'economia cinese lo vediamo da questo calo brusco e molto forte delle importazioni di consumi minori.

ha ribadito che l'intervento non può essere raffazzonato, stoppa i pasticci del passato e appunto quanto dicevamo in apertura. Una delle cose che proponiamo al Parlamento è di riportare il livello dei contanti alla media europea, al livello francese, da 1.000 a 3.000 euro. Altre notizie invece in breve di oggi. Partiamo dal ministro Del Rio, che oggi al forum internazionale di Conftrasporto a Cernobbio, organizzato da Confcommercio, ha citato la logistica come una delle inefficienze maggiori del paese e ha detto che il governo sta cercando di convogliare risorse anche lì per dare poi una lista delle priorità in tema di porti, interporti, snodi logistici, un po' come è avvenuto anche per altri elementi, penso al commercio con l'estero, e ha poi aggiunto: gli accorpamenti sono essenziali per la competitività, vanno fatti, non bisogna pensare solo al proprio orticello. Il problema oggi è avere puntare politicamente e decisamente sul tema della logistica come uno degli strumenti per superare l'inefficienza del paese, e quindi noi ci puntiamo, le nostre risorse verranno convogliate su questo, ripeto, sui collegamenti, sull'intermodalità, sui grandi corridoi ferroviari europei. L'Italia è l'unico paese che ha 4 corridoi europei, quindi deve puntare su questo, perché l'Italia è davvero la porta d'ingresso delle merci per l'Europa. Non lo è stata in questi anni, lo può diventare, anche grazie appunto alla sua posizione geografica, al raddoppio di Suez. Quindi il problema delle risorse non esiste, se ci sono, dobbiamo però usarle meglio. Solo per l'aeroporto di Fiumicino, per esempio, ci sono investimenti per oltre 1 miliardo, nei porti italiani in questo momento ci sono investimenti per oltre 4,5 miliardi. Il sistema delle autostrade, dei collegamenti, ha investimenti annuali per oltre 1 miliardo. Gli accorpamenti sono un elemento essenziale per la competitività. Se invece che pensare ognuno a coltivare il suo orticello si cooperasse, il sistema italiano sarebbe molto più forte. Tutti gli operatori lo dicono, lo dice l'Europa, l'Italia ha bisogno di fare delle scelte. Qualcheduno forse innamorato della propria poltrona, o forse non vuole mettere in evidenza i problemi, i ritardi che ha avuto in tutti questi anni nel fare le cose che doveva fare. Quindi noi rispetteremo tutti i territori, tutti saranno ugualmente rappresentati, ma gli accorpamenti vanno fatti. Così appunto il ministro Del Rio, al microfono il nostro Andrea Ferro. Allora, in tema di acquisizioni, visto che parliamo spesso di investimenti stranieri in Italia, vale la pena ricordare che oggi la Granarolo ha acquisito il 25% del distributore di Made in Italy neozelandese European Foods, che con un'opzione a salire al 51% entro 12-18 mesi. E in questo modo salgono a 56 i paesi raggiunti dal gruppo. Uno potrà dire: ma quanto valgono formaggi italiani in Nuova Zelanda? Non sono cifre eclatanti, però valgono 5 milioni di euro, 33 milioni di euro in tutta l'Oceania, di cui metà costituito da Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Perché lo dico? Perché questa è una tendenza che noi vediamo, per fortuna, nel mondo della distribuzione alimentare e vino, in cui si va e si cerca di comprarsi o entrare con una quota nel distributore, altrimenti la nostra distribuzione, la nostra produzione era, non dico sotto scacco, ma insomma era abbastanza sotto ricatto del distributore locale. Noi non abbiamo grandissimi gruppi, quindi non abbiamo mai avuto strutture nostre. In questo modo si cerca di ovviare all'assenza di una distribuzione, o facendosela da soli o comprando quote del distributore locale, in modo da non essere così sotto scacco ogni volta. Tra l'altro, sempre in tema di agroalimentare o di distribuzione, Italy, e quindi la creatura di Oscar Frenetti, sbarca in Germania, Austria e Svizzera tedesca. Il primo punto vendita sarà aperto entro l'anno nel centro di Monaco. Ha firmato un accordo infatti Italy con il colosso della grande distribuzione tedesca Signet Retail, e prevede entro il 2021 almeno altre 5 aperture. Italy in questo momento ha 26 negozi in Italia, negli Stati Uniti, in Brasile, Dubai, Giappone, Corea del Sud e Turchia, e ricordo che ha circa 400 milioni di euro di fatturato, questo fatturato del 2020. 14. Il motivo per cui parliamo di mondo del food and beverage, come dicono quelli che hanno studiato, è perché si è conclusa questa, alla terzo rilancio, questa mega operazione che creerà il colosso mondiale della birra. Emanuele Scarci del Sole 24 Ore, buonasera. Eccomi, ciao a tutti, ciao. Sì, intanto anche un commento su quello che dicevo degli italiani, anche tu che per il Sole 24 Ore segui tutto il mondo, diciamo, dell'industria agroalimentare, noti che stiamo cercando, i nostri gruppi stanno cercando, quelli con le spalle un po' più grosse, di andare o a farsi la loro distribuzione o a comprare quote del distributore? Sì, è un passaggio, come dire, obbligato per un paese che non ha grandi catene, come dire, all'estero, come succede per i francesi e per i tedeschi, per cui quello è un passaggio obbligato. Se non si riesce ad entrare in queste grandi catene, bisogna avere un distributore proprio o cercare accordi con le grandi catene, che è molto difficile, insomma. E quindi l'operazione di Granarolo, per esempio, si compra la quota del distributore con la possibilità, certo, di salire fino, certo, al 51%, invece che creare una sua rete in Oceania, che insomma ha qualche problema anche di carattere logistico, di distanze, compra già quello esistente. Veniamo all'operazione invece monstra, almeno nei numeri e nel costo. 44 sterline per azione, il 50% in più rispetto all'offerta iniziale, è quello che offre InBev, gruppo belga della birra, per acquisire Sub Miller, pagandolo in tutto 100 miliardi di euro. Nascerà un colosso con 250 miliardi di euro di capitalizzazione, un terzo delle birre bevute ogni giorno al mondo apparterranno a lui, anche perché ha praticamente tutti i marchi più famosi. InBev ha infatti Budweiser, Beck's, Corona, Stella Artois, ne cito alcuni, e 155 mila dipendenti, 47 miliardi di fatturato. Sub Miller, che invece fu fondata in Sudafrica, ha marchi inclusa la nostra Peroni, poi Pilsner, Grosch, commercializza la birra più venduta al mondo, che è la Snow cinese, che la vende in Cina, io non sapevo che fosse la più venduta al mondo, e quant'altro. Allora, Emanuele, qual è l'obiettivo? Perché l'hanno pagata cara, hanno dovuto offrire il 50% in più di quanto non presentassero all'inizio. Evidentemente vedono in questa operazione dei grossissimi margini, o stanno rischiando? Credo che loro abbiano fatto i loro conti, loro in realtà puntano sulle sinergie e sulle economie di scala che potranno sfruttare, oltre che l'ingresso nel mercato africano. Peraltro il caso della birra è unico, perché rappresenta nel mondo proprio un caso di iperconcentrazione esasperata, cioè non c'è nessun settore in cui si sia raggiunta un grado di concentrazione così spinto. Praticamente ogni bottiglia di birra prodotta nel mondo sarà praticamente fatta da Sub Miller InBev, quindi è un progetto molto molto spinto, ed è un caso di studio nelle università, perché è veramente un processo di concentrazione esasperato. Peraltro stanno tentando di imitarlo anche nel caffè, però sono ancora ben lontani dal raggiungere queste dimensioni. Adesso, dirò un'idiozia, ma non esiste un rischio antitrust nel mondo della birra, per esempio? Sì, c'è, perché in qualche paese dovranno pagare dazio, però credo che l'abbiano messo in conto, no? Prenderanno anche qualche euro. Detto questo, riguarda l'Italia, per quanto riguarda l'Italia, ma non c'è questo rischio, perché sommando insieme InBev e Peroni, Sub Miller, arrivano sostanzialmente sui 600 milioni di fatturato, che significa circa il 29% della quota del mercato italiano, che è quanto oggi tiene il leader, che è Heineken. Quindi credo non ci sia questo pericolo in Italia. Cioè ce l'hanno negli Stati Uniti, ce l'hanno in altri paesi, però credo che sia un rischio calcolato. Quindi tu dici, anche qualora nei paesi in cui dovessero andare su un abuso di posizione dominante, sanno già che pagheranno forse una multa, che ci saranno qualche contenzioso, ma è un rischio calcolato. A questo punto chi deve fare qualche cessione obbligata, cioè chi diventa il secondo, se diciamo questa operazione prende il primo e il secondo. È sempre Heineken, che è un altro gigante mondiale con il quale Stab Miller cioè l'anno scorso aveva offerto un matrimonio, una fusione che però era stata appunto rifiutata dal colosso olandese. Si disse ai tempi che un matrimonio fra Heineken e Stab Miller servisse a scongiurarne uno di InBev. Il matrimonio appunto con gli olandesi si è consumato e si è arrivati a quello con il gruppo belga-brasiliano, quindi come era stato previsto. Breaking news. E passiamo a quanto sta succedendo adesso nell'aula di Palazzo Madama, che ha appena approvato la riforma costituzionale per il Senato non elettivo, 178 sì, 17 no e 7 astenuti. La riforma adesso deve avere un ulteriore passaggio alla Camera e poi ritornare sia al Senato che alla Camera per l'approvazione definitiva. Ricordiamo, è stata approvata la riforma costituzionale, 178 sì, 17 no e 7 astenuti, e le opposizioni non hanno partecipato al voto e hanno abbandonato l'aula. Studio. Grazie Elisabetta Fiorito per questa breaking news. Quindi passata la riforma del Senato al Senato, adesso va alla Camera. Grazie anche Emanuele Scacci, Sole 24 Ore, meteo e pubblicità. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Passiamo adesso alla borsa, poi arriviamo agli arresti alla regione Lombardia e poi anche la manovra finanziaria, come ha annunciato oggi da Renzi, a partire dal limite ai contanti, che sarà da 1.000 a 3.000 euro. Volete sapere se questo, secondo me questo governo sta facendo qualcosa in più per combattere l'evasione? No, non sta facendo niente in più. Forse anche qualcosa in meno, non lo so, vedremo come andranno i dati. Certo che la voluntary disclosure, che è però un accordo di carattere anche di tendenza europea, quella lì più che combattere l'evasione, lì permette a chi ha esportato i capitali illeciti all'estero, prima che e visti gli accordi fatti con Svizzera e con molti, non tutti, dei paradisi fiscali, dai la possibilità, pagando e poi mettendo nel patrimonio, di uscire allo scoperto, diciamo, di andare in trasparenza. Quella è una più che una lotta all'evasione, è un modo per permettere alle persone di redimersi prima che sia troppo tardi, perché poi si va nel penale con sanzioni durissime. Come lotta e contrasto all'evasione, boh, rispetto ai governi precedenti, no, non mi sembra. Ho perso qualcosa. Comunque, meno 0,20% Milano, meno 1% Parigi, meno 0,80% Francoforte, meno 0,50% Londra, invariato il Dow Jones, euro su dollaro, quota 1,1385, quasi 1,14. Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Di nuovo un po' in spolvero UX, Net-a-Porter più 1,90%, ma Moncler oggi perde il 6,40%, e in generale il calo della fiducia degli investitori in Germania, conseguente anche allo scandalo Volkswagen, ha pesato un po' sulle borse europee. Infatti Parigi perde l'1 e Francoforte lo 0,90. Prego. Sì, sicuramente i due fattori che tu hai segnalato, lo ZEV innanzitutto, la fiducia degli investitori tedeschi e il dato di questa mattina sulla bilancia commerciale e in particolare sulle importazioni cinesi hanno pesato sulla giornata di borsa e hanno pesato soprattutto sul settore lusso. Siamo un po' tornati agli argomenti di quest'estate, quando la frenata cinese penalizzava soprattutto i grandi marchi del lusso. Ne ha fatto le spese Moncler, che ha perso circa il 6,5%, ma anche Ferragamo ha perso il 2%, Tod's l'1,4%. Per quanto riguarda Yux, veniva da qualche seduta di vendita, visto che dopo che è diventata efficace la fusione tra Yux e Net-a-Porter, gli operatori hanno un po' aggiustato le posizioni su questo titolo, quindi ha perso per qualche seduta. Adesso si ragiona sulle sinergie, quelle stimate sono 60 milioni entro il 2018, qualcuno però scommette che possa essere una stima conservativa, e quindi oggi un recupero del titolo che è in parte tecnico e in parte motivato da questi fondamentali. Ancora, per quello che tu citavi giustamente, lo scenario complessivo oltre a Moncler, CNH meno 2,60, Telecom Italia meno 2,5%, Ferragamo meno 2,14, il lusso, anche lì vi accennavi, pesa anche il crollo delle importazioni cinesi, meno 20%, non scherziamo, è vero che poi si stanno riposizionando sugli Stati Uniti alcuni gruppi, ma il calo è pesante. Unipol meno 1,87% e Tod's meno 1,40%, Monte dei Paschi meno 1,80%, Steam Microelectronics meno 1,20%. Yux Net-a-Porter, dicevo, di nuovo in spolvero, più 1,90%, e anche Mediaset più 1%. Per Mediaset si tratta di un rimbalzo, è un titolo che nei giorni scorsi aveva toccato livelli che avevo consigliato molti di prendere beneficio, visto che aveva fatto un bel recupero nel mese di settembre, in parte per alcuni dati sulla raccolta pubblicitaria che erano arrivati, segnali di ottimismo che erano arrivati dalla RAI e quindi dal concorrente principale sulla televisione in chiaro. E dall'altro canto invece nei giorni scorsi c'era stata una flessione appunto in parte per i realizzi e in parte anche per i timori, le incertezze legate a questa inchiesta che sta prendendo piede sui diritti televisivi, in particolare sull'asta della Serie A. È coinvolto tra gli indagati il direttore finanziario di Mediaset Marco Giordani, e chiaramente nell'incertezza ieri, soprattutto nel pomeriggio, il titolo aveva perso oltre 3%, oggi un rimbalzo quasi dell'1%. Sui titoli ci chiede di Pirelli, oggi era l'ultimo giorno per aderire all'OPA, ieri Chem China e i soci italiani avevano annunciato di avere circa il 54% del capitale, Andrea. Sì, sarà molto interessante vedere se diciamo con il primo periodo d'offerta, cioè quello che si chiude oggi, Chem China e i soci italiani hanno raggiunto l'obiettivo diciamo di una quota che permetterà di delistare, quindi togliere Pirelli da Piazza Affari. È un obiettivo difficile, anche se visto la quota comunicata ieri, è probabile che ci sia una riapertura dei termini dell'offerta per vedere se ci saranno nuove adesioni. Comunque insomma, Chem China e i soci italiani hanno in mano la maggioranza assoluta. Questa sera i dati di Borsa Italiana e Consob ufficializzeranno quella che è la situazione dell'azionariato Pirelli post offerta. Allora andiamo come sempre anche sui migliori e peggiori della seduta. Dimay Group più 20, Digital Brothers più 6,90, SAP più 6,60, Molmed più 5,60, fronte opposto Moncler appunto è il peggior titolo in assoluto, meno 6,40, e Clabo meno 4,20 e ON meno 4%. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. minuti. Arrestato il vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani con l'accusa di concussione, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti. L'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Milano, perquisizione e sequestro di documenti questa mattina di Mantovani, ex senatore, ex parlamentare, europarlamentare, ex coordinatore del PDL Lombardia e vicepresidente da inizio mandato dal 2013. Oltre a questo ha indagato anche l'assessore Garavaglia. Ci sarebbero anche le accuse di aver truccato gare sui malati dializzati, tra quelle truccate del vicepresidente della regione Lombardia, appunto Mantovani. Chiedo alla nostra Raffaella Calandra, che è riuscita a vedere le carte dell'inchiesta, di sintetizzare le accuse di concussione, corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, ma poi concretamente l'indagine della Procura e della Guardia di Finanza su cosa si è concentrata. Raffaella. Sebastiano, ciao a te e ai nostri ascoltatori. Partiamo dall'accusa più grave per Mantovani, quella di concussione, che ruota intorno alle pressioni che avrebbe fatto sul nuovo provveditore Pietro Baratono, provveditore alle opere pubbliche della Lombardia, perché rimettesse al suo posto come referente unico esclusivo degli appalti relativi all'edilizia scolastica uno stretto collaboratore di Mantovani, Angelo Bianchi, che era stato già rinviato a giudizio dalla procura di Sondrio per un'altra brutta storia in tangenti in Valtellina. E ci sono tante conversazioni, tante sms, tante deduzioni del GIP di Milano, secondo cui praticamente Mantovani avrebbe esercitato il suo ruolo per fare pressioni sul provveditore perché reintegrasse questa persona, anche con, diciamo, la velata minaccia che altrimenti molti comuni avrebbero revocato l'accordo che esisteva con questo provveditorato. Quindi in sostanza pressioni perché rimettesse a posto questo suo amico che è Bianchi. C'è da dire che su questo tema ci sono moltissimi omissis nell'ordinanza. No, perché ti stavo per obiettare, adesso figurati se voglio sostituire i miei magistrati e i reati sono reati. Però da come tu stai raccontando si tratterebbe di pressioni, di forti pressioni, di pressioni indebite, ci mancherebbe. Non, siccome le agenzie titolavano tangenti, io qua però di tangenti non questo vedo. È il reato di concussione, che però per Mantovani è quello più grave in questo momento, quello che perché poi c'è anche l'accusa di corruzione aggravata e tutela la libertà degli incanti, giusto? Corruzione aggravata e turbativa degli incanti, si riferisce ad una serie di altri episodi, uno dei quali riguardanti un altro suo collaboratore, un'altra sua persona a lui molto vicino, un architetto che cerca di piazzare, per dirle in modo semplice, in una serie di ospedali della Lombardia, una persona che da anni ha fatto lavori per l'ingente patrimonio immobiliare, così dice il GIP di Mantovani, senza aver mai chiesto soldi, tant'è vero che non sa neanche quantificare per quante ore di lavoro ha lavorato, e questo perché, diciamo, in cambio di tutti questi lavori riceveva appalti e lavori pubblici all'interno di questi ospedali, e poi c'è anche un appalto per un'opera antisismica in una scuola, diciamo, è questo scambio, ecco, e l'utilizzo della sua funzione. Ecco, io immagino tutto. Che i giornali domani, al di là della nota di colore che Mantovani, prima di essere arrestato e portato in carcere questa mattina, era atteso alla giornata della legalità e della trasparenza, però immagino che i titoli domani saranno molto anche su questa, tra le gare truccate, quella relativa al servizio di trasporto dei malati di dialisi. Si sa qualcosa di più? Perché questo è la cosa che più colpisce. Prego. Beh, questo è tra le cose, diciamo, appunto, che colpiscono di più e più gravi. Si sa che è un'opera, era una gara d'appalto che valeva 11 milioni di euro ed è una delle parti che è, diciamo, in coda della corposa ordinanza di custodia cautelare del GIP, per cui diciamo che sto ancora studiando, però è sicuramente una delle opere e delle gare d'appalto che viene contestata appunto a Mantovani e che, per quanto appunto sull'opinione pubblica, avrà sicuramente più impatto, ma ci sono anche tantissimi elementi su cui l'indagine va a colpire che riguardano i nomi ancora coperti da omissis, cioè nomi che ancora non finiscono nell'indagine ma che in qualche modo potrebbero esserci finiti ma che i magistrati non ritengono di dover svelare, e questo potrebbe essere il secondo livello di questa inchiesta. E poi c'è il fronte politico, ma di cui non ci occupiamo noi, il fatto che i 5 Stelle e il PD vadano verso la mozione di sfiducia del Presidente Maroni. Grazie intanto a Raffaella Calandra, adesso ci sono le informazioni del nostro GR24 e poi parliamo della manovra finanziaria e anche di Alitalia e di questo aumento della soglia annunciato dal Premier da 1.000 a 3.000 euro per l'utilizzo dei contanti. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questa? Ma no, ce l'ha con te, Alessandro, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a noi due. Che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a noi due. State ascoltando un programma offerto da Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo a parlare anche di quanto hanno comunicato oggi dal Presidente del Consiglio Renzi sulla manovra finanziaria. Molti mi stanno scrivendo al 349-238-6666 e poi anche sul sito di Focus, sulla pagina di Focus Economia nel sito di Radio 24, ma perché lei se la prende con i 1.000-3.000 euro. Allora, adesso ci arriviamo, perché io capisco tutto, voglio dire, uno può decidere anche che il limite è a 10.000 euro di contanti. Renzi oggi ha annunciato che toglierà la misura presa da Monti di portare il massimo utilizzo del contante a 1.000 euro. Molti mi scrivono, ma gli stranieri che arrivano qua e vogliono spendere in contanti, capite? Poi citate che sono russi, sono stranieri che arrivano con soldi, diciamo, perché sennò lo straniero è il classico che vuole utilizzare la carta di credito. Ma non è questo il tema, scusatemi. Il tema è che il messaggio che tu dai al paese che ha la più grande evasione fiscale in Europa è un messaggio di dire guardate che sto lentamente smontando tutto quello che aveva fatto Monti. Può piacere o può non piacere. In un governo che oggettivamente non si è messo a dire che a fare delle misure anti lotta all'evasione, perché non ne ricordo di nuove, i redditometri vari ne parlavamo gli anni scorsi, ma appartenevano ai governi precedenti, Letta, Monti e Beff. Da questo punto di vista, noi sappiamo che il tema dell'evasione in un paese come il nostro è un tema che si basa anche sui messaggi e sui simboli che dai. Abbiamo sempre difeso alcuni mondi del commercio, artigiani, commercianti, dell'accanimento delle volte che c'era in alcuni studi di settore. Ne ho fatto intere campagne su questo, che non si poteva fare la lotta all'evasione solo con i piccoli, a botte di 5-10 mila euro, bisognava andare a trovare i grandi capitali. La voluntary disclosure fa parte di un percorso comunque preso da tanti stati in Europa e non solo dall'Italia, quindi il governo Renzi non se lo può attribuire come merito, lo dico a chi sta scrivendo. Quello fa parte degli accordi presi nel corso degli anni dalla Svizzera, prima con gli Stati Uniti, poi a raffica, a raggiera con tutti gli altri paesi, in cui a livello europeo si dice attenzione che se tu non ti metti in regola vai nel penale. Prima cosa. Seconda cosa, per quello che riguarda la dichiarazione di oggi, ci sono due cose che non mi tornano. La prima, dice il Presidente del Consiglio, ma lo portiamo a 3.000 euro perché tanto è tutto tracciabile. Beh, allora, intanto se è tutto tracciabile può portare anche a 10.000, leva il limite proprio. A noi non risulta che sia tutto tracciabile. Il secondo aspetto sulla Francia, lo portiamo a livello francese, è un'inesattezza. La Francia da 3.000 l'ha portato a 1.000. Allora, il Presidente del Consiglio, se vuole essere credibile, lo diciamo con massimo rispetto, quando va a dichiarare queste cose deve documentarsi prima, perché sennò poi il sospetto che siamo in piena campagna elettorale e vuoi strizzare l'occhio ai commercianti, che va benissimo, siamo uomini di mondo, tant'è che oggi tutte le associazioni del commercio, Confcommercio, Confesercenti, dicono bene, anche la FIP, bene, perfetto, giustamente vedono dal loro punto di vista. ma voglio dire, devi dire le cose come stanno, perché sennò dire che tanto è tutto tracciabile e fai come la Francia, dici due cose non vere. Il sospetto che sia un'altra mossa per accaparrarsi i voti o il consenso politico del mondo del commercio, di chi aveva in odio la misura da 3.000 a 1.000 euro perché ha del nero da fare, il sospetto è fortissimo. Allora, andiamo avanti su questo. Per quello che riguarda invece l'Italia, vi arriviamo tra un attimo, ma scusatemi, dopo aver ricevuto per un'ora messaggi come se volessimo lo stato di polizia, uno si leva anche qualche sassolino dalla scarpa. È vero che i paesi anglosassoni hanno una tassazione più bassa della nostra, ma allora uno deve chiedere di ridurre la tassazione, deve chiedere il contrasto all'evasione, e cioè la possibilità, le forme di contrasto che, di cui più volte abbiamo parlato, di scaricare parte delle fatture per lavori di casa, per l'idraulico, per l'elettricista, dalle dichiarazioni dei redditi. Questo vabbè, deve chiedere alle banche di abbassare le commissioni sulle carte di credito praticate per i commercianti, per i tassisti. Questo è il metodo corretto, non applaudire se il Presidente del Consiglio dice adesso i contanti li porto da 1.000 euro a 3.000 euro, se no sospetto resta. Va bene, all'Italia il presidente Montezemolo sull'amministratore delegato non devo aggiungere niente, non abbiamo la pistola contro, lavoriamo molto bene con James Hogan, non c'è fretta, abbiamo questi nuovi motori che hanno 8 marce più della Formula 1 e quindi il nuovo nome dell'amministratore delegato per ora non si saprà. L'amministratore delegato si è dimesso per sua scelta, non cambia una virgola dei nostri programmi, anzi ancora più accelerazione, con entusiasmo, con una buona squadra. Escludo che abbiamo ancora fatto delle scelte e non abbiamo, come ho detto, nessuna fretta. Io mi sono buttato dentro a questa avventura, con Hogan lavoriamo molto bene, ho un primo livello di persone molto molto valide e quindi quando avremo delle notizie ve le diciamo, ma non è un tormentone perché non sarà una decisione che prenderemo a tempi così brevi, potranno passare 3, 4, 5 mesi, non abbiamo la pistola puntata qui, l'azienda va avanti bene. E poi sulla vicenda Fiumicino, ha detto Montezemolo, sono fiducioso che avremo il terminal entro fine 2016, il terminal F, completamente dedicato ad Alitalia. Continuiamo a pagare un prezzo molto alto di quello che è successo a Fiumicino, tra incendi, blackout e problemi vari. Noi abbiamo bisogno, come Alitalia, avendo definito Fiumicino come nostro hub, di avere un terminal dedicato e quindi siamo assolutamente confidenti che alla fine del 2016 avremo un terminal che si chiama F totalmente dedicato ad Alitalia, su cui siamo pronti a contribuire per farne diventare un terminal di primissimo ordine. Sì, lo so, non si dice confidenti in italiano, gli inglesismi generano mostri anche nell'ex presidente della Ferrari, si dice fiduciosi, confident e fiduciosi, confidente in italiano è uno che parla con la polizia o fa altro, insomma, così sistemiamo anche Montezemolo, no, in questo caso era semplicemente una cosa, però lo vedo usare sempre più spesso, siamo confidenti anche in documenti ufficiali e basta, confidente vuol dire un'altra cosa, si dice fiducioso in italiano comunque. E poi Montezemolo ha detto che l'Italia serve un piano turistico, da dall'Italia arriverà l'aiuto. Dopo il traffico adesso le ultime novità appunto della legge finanziaria o della legge di stabilità, a partire da questi maledetti o benedetti 1.000 euro in contanti che diventano 3.000. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento Focus Economia. Allora, hanno ragione alcuni ascoltatori nel dire, ma perché lei quando parla di questa cosa dei 1.000 euro che, in contanti che possono essere 3.000 euro, cita i commercianti artigiani? Io ho solo citato che subito è arrivato il plauso della Confcommercio e della Confesercenti, ma ci mancherebbe se vado a pensare che l'evasione e il nero si nasconda solo lì. Giustamente l'ascoltatore dice, e quando parlerà di medici, avvocati, scoprimo anche che i notai in questo paese prendevano il nero, ma qualcuno se la ricorda che non ci credevamo, perfino i notai, ci sono arrivate segnalazioni. Allora, ma figuratevi, dico semplicemente che fai come fa il resto d'Europa. Allora, prima balla, e non so come chiamarla, che oggi ha detto il Presidente del Consiglio, non è vero che la Francia li ha 3.000, la Francia li ha appena portati da 3.000 a 1.000. E negli altri paesi, ed è il dato più interessante, prima di passare la parola a Salvatore Padula, l'Italia è tra l'altro il paese che utilizza più contante in Europa. Allora, vediamo se è solo una supposizione o il fatto che noi siamo il paese che ha il tasso di evasione fiscale più alto rispetto al gettito complessivo tra quelli, diciamo, simili a noi, Spagna, Germania, Francia, noi abbiamo il 27%, si abbia qualcosa a che fare col fatto che noi utilizziamo pochissime operazioni che non siano in contante. Pensate che la media in Italia è di 66 operazioni annue di pagamento diverse dall'uso del contante, contro la Francia che ne ha 260, cioè più di 4 volte, la Germania 212, la Gran Bretagna 270, la Spagna, perfino la Spagna ne ha il doppio della nostra. La fonte è la Banca d'Italia, quindi mi sa che siamo tutti d'accordo. Però poi vorrei capire un'altra cosa, chiedo a Salvatore Padula del Sole 24 Ore. Buonasera Salvatore. Buonasera. Il Premier l'ha illustrata sta misura dicendo: attenzione, una delle cose che proporremo al Parlamento con la legge di stabilità è riportare il livello del contante alla media europea, al livello francese. Già noi abbiamo pensato a verificare, non esiste una media europea, portandolo da 1.000 a 3.000 euro. È un modo per aiutare i consumi, dice Renzi, e questa la cosa diventa interessante. Io non capisco perché debba aiutare i consumi portare da 1.000 a 3.000 euro, cioè se io i soldi ce li ho, ce li ho, se non ce li ho, non ce li ho, cioè se ce li ho nel bancomat o ce li ho in contanti sono fatti miei, ma se non li ho non li ho nemmeno se tu mi porti a 3.000 euro. Il messaggio a me non piace, posso dirlo in maniera chiara? Perché se vedi, dai, lo sappiamo che i consumi ripartono anche con un po' di nero, e in un paese come questo, vabbè. E poi dice basta al terrore, sapendo che quei soldi sono tracciabili. Allora, sti soldi sono tracciabili, sì o no? Perché a quel punto portiamola a 10.000. Il governo Prodi nel 2008 la portò a 5.000 euro, poi arrivò il governo Berlusconi che la portò a 12.500 euro, poi sempre il governo Berlusconi l'aveva ridotta prima a 5.000, poi a 2.500 euro, poi è arrivato il governo Monti, l'ha fatta scendere a 1.000, adesso arriva il governo Renzi, la porta a 3.000, diciamo si colloca tra Monti e Berlusconi come soglia. Prego. Dunque, posso dirti? Beh. No, dunque, per il confronto internazionale è interessante, effettivamente, però io partirei dall'Italia, perché la prima imprecisione riguarda proprio l'Italia, cioè è vero che noi abbiamo un limite di 1.000 euro sull'utilizzo dei contanti, non è vero che gli extracomunitari hanno lo stesso limite, gli extracomunitari in Italia hanno un limite del contante a 15.000 euro, quindi insomma mi sembra un livello che mette al riparo anche sì, faccio notare, ecco, che in Spagna c'è un limite a 15.000 euro per gli stranieri, quindi lo straniero che viene vuole spendere in contanti perché si è portato gli euro... Lo può fare fino a 15.000 euro, non mi sembra pochissimo. Degli altri paesi europei, il Portogallo è come l'Italia, la Francia, tu hai detto giustamente, la Francia da quest'estate è scesa da 3.000 a 1.000 euro, è stato approvato un decreto già in vigore, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale loro, quindi la Francia sta come noi. La Grecia e la Spagna stanno leggermente sopra noi, 2.500 la Spagna, 1.500 la Grecia. Gli altri paesi europei non hanno limite al contante, però dobbiamo anche spiegare perché non ce l'hanno, perché evidentemente hanno sistemi di tracciabilità dei movimenti diversi dai nostri. Quando Renzi dice tanto è tutto, possiamo alzare il limite, tanto è tutto tracciato, dice una cosa solo parzialmente vera, nel senso che lo stesso Renzi nel gennaio scorso aveva paventato la possibilità di elevare la soglia di utilizzo del contante, però contemporaneamente all'introduzione di un sistema di fatturazione elettronica, cioè di un sistema che davvero monitorasse tutti gli scambi tra, diciamo, soggetti, allora, tra gli operatori commerciali. Certo. Invece, diciamo, adesso in qualche modo sorprende questo annuncio, perché è evidente che come dire, la scelta di limitare la circolazione del contante ha come primo obiettivo quello di cercare di intercettare l'evasione fiscale. Questo, insomma, non possiamo far finta, no, che la motivazione per cui si è fatto, dai. Esattamente, no. Quindi io devo dire che sono d'accordo con te quando dici che è un segnale brutto che viene lanciato. È come se si comunicasse che si può, insomma, abbassare un pochino la guardia. Lo dico in maniera ancora più, non piace nemmeno che il Premier, invece di ricordare che questo paese ha ancora molta strada da fare sulla lotta all'evasione, quella grande, siamo tutti d'accordo. A chi mi dice che io devo essere a libro paga di qualche banca o socio della Visa, io purtroppo, o per fortuna, la Visa la uso, quindi mi pago anche le commissioni. Il problema è un altro, abbiamo appena detto, un governo serio dice alle banche, per favore, adesso abbassate i tassi, le commissioni per quello che riguarda i commercianti, il mondo del commercio, le commissioni che dovete pagare sulla carta di credito. Ne abbiamo parlato molte volte anche con i tassisti, è vero che hanno delle commissioni alte, quella è una cosa che puoi fare. Assolutamente, ed è legittimo, in modo da incentivare l'utilizzo della carta di credito. Faccio notare che eravamo in diretta a Capri lo scorso venerdì, sia all'andata che al ritorno non si è trovato né in aeroporto né al porto di Napoli un taxi, uno, dicesi uno, che avesse l'utilizzo della carta di credito. A Milano ce l'hanno la stragrande maggioranza e lo riconosco, a Roma siamo a metà. Ma questo per inciso, così si arrabbieranno alcuni tassisti di Napoli in questo caso, perché mi riferisco solo a loro. Allora, gli altri paesi hanno una tracciabilità totale, te credo che puoi usare quanti contanti vuoi, incroci le fatturazioni, ma qui, senza andare all'incrocio dei dati, stiamo già dicendo che bisogna uscire dal terrore, ok? Basta al terrore. Io vorrei capire quale terrore. È un modo per aiutare i consumi. Detto questo, Salvatore Padula, cerchiamo di far capire anche che cosa voglia dire la tracciabilità e quanto e quello di cui si era ragionato in passato sulla tracciabilità della fatturazione. Ma diciamo, la fatturazione elettronica è il sistema che di fatto impedisce l'evasione fiscale alla radice, perché consente all'amministrazione finanziaria, che poi, diciamo, può accedere a tutte queste informazioni che vengono archiviate in database eccetera, di intercettare tutti gli scambi, sia diciamo tra gli operatori commerciali, sia a partire da certi importi di spesa elevati, anche con i consumatori finale. Quindi è un sistema diciamo abbastanza infallibile, sul quale, insomma, non tutti sono d'accordo, perché certamente impone poi costi di gestione elevati per le aziende, per i commercianti eccetera. Su questo per carità bisogna, appunto, poi come dici tu, è un po' lo stesso discorso delle carte di credito, cioè bisogna lavorare perché le banche le società di gestione riducano le commissioni. Non si può pensare, d'altra parte non si capisce perché all'estero invece l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento impazzire è che si cita l'estero sempre quando fa comodo, cioè si dice facciamo come la Francia, dicendo tra l'altro una balla, perché la Francia da 3.000 l'ha portata a 1.000, ma diciamo andiamo su una media europea e io ti posso anche seguire, va bene, però facciamo tutto quello che fa l'Europa. Cioè, perché una volta si evocava, mi ricordo, l'America, gli Stati Uniti d'America, quando c'era da parlare della guerra in Iraq, governi di centrodestra, e vedi come fa l'America, la liberale America, poi si ometteva di dire che in America se evadi va in carcere. Allora, vogliamo l'America, pigliamocela tutta, e in America l'evasione fiscale non è una cosa su cui scherzi. Oppure teniamoci l'Italia, ma lasciamo stare gli esempi americani. Allora, vogliamo l'Europa? Pigliamocela tutta, anche sui controlli nella fatturazione, la fatturazione incrociata, che lì funziona. Allora ti credo che in Germania puoi usare 10.000 euro, 15.000 euro di contante, tanto è tutto stratracciato e, voglio dire, fanno i controlli incrociati. O se no, se prendiamo atto che siamo in Italia, dove c'è un tasso di evasione che non conosce uguali nel resto d'Europa, allora diciamo, attenzione, dobbiamo trattarle in maniera un po' diversa. Non a caso, sarà un caso, sono tutti i casi, ma i paesi dove maggiore è l'incrocio di dati fiscali, Germania, Austria, Gran Bretagna, non hanno limite all'utilizzo del contante. I paesi in cui l'abitudine a evadere e a far nero è più alta, e ossia Spagna, Portogallo, Grecia e anche Italia, hanno il limite al contante. Sarà un caso, sarà la cinta dell'olio, cosa devo dire? Però su questo, Salvatore, non giriamoci attorno. No, questo è esattamente il punto. Tra l'altro vorrei aggiungere una cosa, cioè io veramente non capisco questa affermazione di Renzi, per cui l'abolizione, il fatto di alzare il limite dovrebbe favorire ma i consumi. Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Stiamo facendo campagna elettorale, dai. Te la dico io, così ti devo da ogni imbarazzo. Non ha una frase detta dal Presidente del Consiglio che io porto il limite di utilizzo dei contanti da 1.000 a 3.000 euro perché faccio ripartire l'economia, allora io dico va bene, se tu sei in procinto di vincere il prossimo Nobel all'economia, portala a 12.500, cioè riportala al livello del governo Berlusconi, così rilanci ancora di più l'economia. Ma veramente, lo dico senza provocazione, se credi in quello che dici, se credi che portando il limite dei contanti a 3.000 rilancerà l'economia, a noi sembra che per rilanciare l'economia dovresti fare il contrasto all'evasione, poter scaricare le fatture nella dichiarazione dei redditi, così magari io sono più stimolato a chiedere la fattura, ridurre le tasse, vediamo quello che farà il governo, e ridurre le commissioni bancarie, cioè i guadagni delle banche sulle carte di credito. Certo. Quella era la direzione da prendere. Grazie Salvatore Padula. Grazie a te. Scusatemi, ma è una cosa che mi manda in bestia leggere le cose completamente così. Campate per aria, ci risentiamo, spero, domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.